persone, ma casi da studiare. Siamo esperimenti andati male, chiusi a chiave da quattro mura, inferi altri arrugginite come una clausura. Scarcerati senza colpa, subiamo violenza, che chiamate cura. Quando ci legano, ci picchiano, non c'è umanità. Là fuori dicono che c'è la vostra libertà. Un dottore ha detto che siamo qui per il nostro bene, ma come mai fanno così male queste catene? Siamo scarti dalla società, riconoscono, li facciamo vergognare, per questo autorizzano ogni atrocità contro di noi. Noi non saremmo mai ricordati fra gli eroi. Qui ci curano per il reinserimento, un giorno forse finirà l'addestramento. E facciamo paura perché sappiamo usare la fantasia. Ci dovete legare perché a questo avete dato il nome. Dalla nostra cena al vostro ufficio, ma è proprio questo il vostro mondo. Siamo scappati ma proviamo un malessere profondo. Qui regna solo egoismo, indifferenza, che delusione questa per voi. Libertà, intelligenza, siete in grado solo di armarvi e provare rancore. Pensate solo ai numeri, non c'è più faccia di amore. Respirate, fumo, mangiate, vedete, uccidete i vostri simili. Siete pericolosi, perfetti, intoccabili, irraggiungibili. Non siamo persone, ma casi da studiare. Siamo esperimenti andati male, chiusi a chiave da quattro mura, inferi altri arrugginite come una clausura.